per gas con aria propanata e con il metano. Quello che hanno messo per il metano è una valvola di sicurezza che va messa vicino al contattore in più. E quindi stanno facendo, io l'ho già fatto l'intervento, già da 2 mesi fa, altri lo stanno facendo adesso. I giorni scorsi sono passato, stavo aprendo il cancelletto e ho sentito dell'odore di gas forte, anche una signora che abita qua mi ha detto, anche lei lo sente? Ho detto sì, ho chiamato io il numero verde delle emergenze, delle perdite del gas, la verità si dica, sono venuti subito, mi hanno suonato il citofono, signor Cao può scendere? Che non abbiamo la chiave del... Sì, sono sceso, sì, in effetti si sente, no? È poca roba perché dice fa molto odore, però dice è fatto apposta per... E c'era una piccola perdita, avevano fatto l'intervento, non avevano stretto molto un raccordo e quindi stava perdendo da lì, quindi l'ha sostituito. Però anche in quel caso sono intervenuto io, ho chiamato io, qua, anche qua sono di quelli che si lamentano e non fa di nulla, non chiamano mai. Sono le cose contro del vivere in condominio. Purtroppo la convivenza tra persone è soggetta sempre a malumori. Bello sarebbe stato, non sarebbe, perché oramai no, bello sarebbe stato da presto farmi una casa in campagna. Pensare di fare la casa in campagna adesso e andare a abitare fuori, assolutamente no. Anche perché chi ne ha più voglia di stare appresso all'erba che cresce, oramai non più, era un sogno di ragazzo, ma adesso penso di andare a vivere fuori Sassari, no. E io lo stesso, io ormai mi ero abituato a questa zona e non mi sono allontanato di molto, capito? E quindi sono rimasto qua e quello che ci ho guadagnato è che ho un palazzo che è stato costruito 15 anni fa, per cui è di nuova costruzione e non devi fare nessun intervento. È giusto qualche spesa straordinaria, magari se si dovesse rompere qualcosa, eccetera, ma qua da quando ci sono in un anno non ho visto niente di straordinario, capito? Quindi niente spese, tetto va bene, facciata va bene, le ringhiere sono buone, ci sarebbe da ripitturare il cancello che ha un po' di ruggine, ma quello è un lavoretto esterno, si trova qualcuno che te lo fa, si paga e ci dividiamo la spesa tutti quanti e non è una grossa spesa, capito? Se lo vogliono fare, se no per me può rimanere arrugginito, prima o poi si metteranno d'accordo, se lo vogliono fare lo facciamo, altrimenti rimane così. E niente, il cancello c'ha il telecomando FAC e già funziona bene, io c'ho il telecomando e la chiave, puoi aprire o col telecomando oppure con la chiave. E poi dall'altra parte invece c'è il cancelletto dove entriamo, perché io ho il cancello per entrare in garage in via Pola, ma l'ingresso di casa è in via Brunizzeta, la casa fa ad angolo dove abito io, quindi prende 2 vie. E niente, c'è l'ascensore che mi arriva fino a giù al garage, capito? Quindi tutto comodo qua e ho fatto bingo, anche perché in 5 minuti io sono in Piazza d'Italia da qua, esco di casa, scendo in Viale Trento, ci impiego 5 minuti, attraversi poi Viale Umberto, sei in Via Belliene, in Piazza d'Italia, 5-7 minuti, capito? Per cui molte volte scendo a piedi, infatti anche ieri quando ci siamo incontrati a prendere il caffè, tu mi hai detto dove ce l'hai la macchina? No, sono sceso a piedi, poi dovevo passare da mio cognato che abita in Viale Umberto e poi da Viale Umberto a casa mia salendo lì Viale Trento, faccio quel pezzo di salitina, sono 10 minuti, 12 minuti, capito? Non sto con la macchina a perdere tempo, parcheggi, se non hai pesi eccetera, io esco sempre a piedi ormai. Avanti Sergio Valdero, Lucca, stazione Fluppi, Sassari. Sono rientrato, Luca? Sì, Claudio, ti sento. Sergio Valdero, da questa parte, Lucca, stazione Fluppi, zona Violettano a Sassari. Qua arrivi con un Santiago di 3 e 4 e la radio è un po' sono disturbata, però ti ascolto. Ora chiediamo anche agli altri due colleghi se ti sentono, per cui fare un passaggio che loro ti registrano. Parlo, Carlo Gianni, poi avremo il responso della ricezione di Sergio Valdoro. Vai Sergio. Uno per lo meno se è tratto molto lo ascolto un po' in maniera, tanto che ce l'ascolto un po' di molto coerente, ma riesco a vedere. Ha rilasciato a me che Sergio da Dalghero ha detto Luca qua arriva S2 S3 molto molto basso. Vabbè, vediamo intanto un po' se mi ascolta. Attenzione Sergio, ascolti Claudio Sparviero da Sassari. Claudio Sparviero da Sassari, certo ti ascolto con un segnale di 5, è una radio bella potenza di 5, non dico 5 ma 4, ma ecco ok K, molto bene Sergio, anche tu arrivi in segnale di 3, 2-3 però abbastanza comprensibile, se puoi aumentare qualcosa è anche meglio. Ok, il cambio per Carlo, allora avanti Carlo. Io lo sento molto basso in mezzo al QRM, non si capisce, sento che ha una voce un po' grossa, ma non capisco quello che dice, il segnale è troppo basso, ho capito, di radio e anche di segnale, niente, quindi salutatemelo voi, io non lo sento, non so se lui riesce a sentirmi o meno. A te Luca, riprendi. Brecca. Vai Luca. Sì, eccomi, sì, Valdoro, sì, arrivo in mezzo al QRM, sì, però io lo ascolto discretamente bene. Avanti il break con la buonasera. Cappa, buonasera, questa parte è Antonio. Io lo sento più lo stesso, Santiago, 2-3, non di più, non so se mi sente lui, saluto Sergio Valghero, buonasera. Allora io ricevo tutti quanti con un segnale che varia tra i 4 e i 7 e riesco a sentirmi perché tanto e non mi ascolto da prima, è la mia condizione che non è favorevole, ho l'antenna che ripeto ho fatto un paio di 3 metri e quindi non per forza e in più sono in una zona di Piero, zona montagnosa, dove c'è la vallata che guarda la parte del mare, quindi dovrei essere favorevole in un certo modo, ma non più di tanto. Mi prendi Luca, Luca che è l'unico che mi ascolta. Quindi diciamo zona Ruscello, zona Giulio Spanedda, diciamo, dai, l'ingresso di Alghero. Carboniddu, quella zona si chiama Carboniddu. Sì, ho capito. Vabbè. Giusto Sergio, sei nella zona di Carboniddu dove c'è l'MD. Allora, diciamo che sì, però io sono dietro il monte, se tu continui la strada. Ce n'è una che torna dietro il monte che ci sono 6:30 e che passa case private e io sto vicino. E io vabbè ci ho lavorato lì con la zona, quindi poi andare a Monte Agnese, lì al portabilizzatore di Monte Agnese ci ho lavorato per un po' di anni, quindi conosco perfettamente quella zona. Ok. Ciao Antonio, ben ascoltato, buonasera. Avanti Carlo. Io negativo, no, da Alghero sento più pio ma segnale basso, quindi non riesco a copiare. Non si capisce, si sente che c'è qualcuno sotto ma non capisco. Antonio lo stesso, e la mia condizione è quella che è, quindi no, non posso far di più. Riprendi tu Luca. Giudizio di Boni da Sant'Enna, e no, mi sa, Claudio, mi sa che gli facciamo un'invasione di campo e andiamo a casa sua e gliela piazziamo, altrimenti non gli dà cuore. Io porto la staffa, che ce l'ho già in macchina, e gliela piazziamo in 448. C'ho anche un altro vulcanizzante, se ne ha bisogno, lo stilo, e mi porto appresso anche quello. Vabbè, c'ho sempre tutto appresso io. Mi sa proprio facciamo così, ma non che ne arrivi, qui tanto è una di gomma. Va bene, avanti Antonio. Diciamo che le antenne vanno messe in alto, qualsiasi antenna esso sia, va messa fuori dal tetto, non la puoi mettere così sì, così, tanto di guadagnata e cosa. Tu qualsiasi antenna, se vuoi che renda, deve uscire fuori dal tetto, deve stare in alto. Allora le cose cambiano. Quella lì è grande, quella già anda, chissà, la Smart Tech. Sì, vabbè, quell'antenna si può piazzare, quella è una delle antenne, delle poche, forse l'unica antenna che lavora anche a piano di terra, capito? Lavora 50 cm dal suolo, non c'è problema. È una spola a 7 ottavi, quindi non ha problemi di ostacoli. Messa lì, come dico io, all'angolo della ringhiera, quella è come che ce l'hai sul tetto, non è che cambia molto, assolutamente. Avanti Sergio, il cambio per te. Grazie. Comunque io qua sto iniziando a sentire parecchio QRM e riesco a far fatica veramente a sentire la... Io sentivo Benedetta e Claudio. Agli altri non sono riuscito neanche a registrarmi. Va bene, comunque mi ha fatto piacere questo piccolo, minuscolo QRO, e io faccio un QR qui e vedo un attimo se c'è su qualche altro canale un po' più di calma e niente, quindi saluto tutta la volta, tutta Claudio, Carlo, Antonio, poi forse mi ricordo anche anche Claudio. Sì, capo, se stai chiudendo ti saluto, perché si è calato il segnale, anche io c'ho un po' di QRM perché sta piovendo, a dirotto qua, c'è molto QRM, comunque ti saluto se stai chiudendo, Sergio, piacere averti sentito per la prima volta, e ci sentiamo alle prossime, io faccio girare per i saluti, vai Luca, poi vai per Carlo e Antonio. Salutone Sergio, salutone e alle prossime, tanto in estate mi sa che mi piazzerò l'antennino ad Alghero quando cambio residenza, mi piazzerò un antennino anche lì e magari ci sentiremo con una radio più pulita. Alle prossime, vai Carlo. Ciao Sergio, non so se mi senti, ciao, buona serata, vai Antonio. Ciao, salutone Sergio, salutone. Sentiamo le prossime, io penso che a me già mi senta. Scappa, le prossimine. Ciao. Hai schiacciato la porta, anche sei sparito, sei sceso a S5, poi mentre stavi parlando sei salito a 9. Hai notato qualcosa, Luca? No, stavo spegnendo la stufa perché adesso mi stava sciogliendo in questa cameretta. Ho spento tutto perché poco fa c'era il gelo, ad avviso 40 gradi. Sta andando, sì. Sì, adesso sì, avete parlato in due con Luca. Sì, evidentemente stai attento lì ai PL, stai attento a qualcosa, perché questi abbattimenti così possono fare danno. Ok, ma quanti casi vai tu? È a Pratabuona, è a Sassari, devi andare ad Alghero, a Paletta, anche noi ce l'abbiamo ad Alghero, ma io non ci vado mai perché non c'è troppo caos d'estate, non mi interessa. No, la mia casetta Alghero galleggia, l'estate me la passo lì, e non è una casa in muratura, diciamo che il programma futuro sarà nelle mie intenzioni andare a abitare a Alghero da pensionato, perché con la barchetta lì ed è molto bella anche d'inverno Alghero, molto tranquilla, sembra un presepe, e con lo scooter ti muovi bene, ma quello è un programma molto futuro. Case non ne ho tante, c'ho la mia che è questa, e poi c'è quella di Platamona che è dei miei, non è mia. Niente altre case, tutto qua. No, ma io sono di origine algherese, quindi mia mamma era Alghero, c'ho tre sorelle ad Alghero, perciò non c'è problema, ce l'abbiamo ad Alghero. Non ce l'abbiamo ad Alghero, però io ci vado, ci spesso, c'ero anche stamattina, ma stare lì, abitare lì, no, mamma mia, è un caos. Io l'anno scorso ho fatto tutto il mese di agosto quasi praticamente, ma ti dico che nervoso mi veniva, è peccato che non c'ho lo scooter, ce l'avevo qua a Sassari Fodorato perché lo usavo pochissimo, ma gli era da fare con lo scooter o con la bicicletta l'Alghero, adesso, perché veramente è un disastro. Però non ti nego che mi piace come città, mi piace come città, è abbastanza ordinata, pulita, però mia mamma c'è la fertilia, quindi no, però le altre mie sorelle sono tutte e due l'Alghero. Va bene, cambio per Carlo allora, io Carlo sto andando sempre con 140 MC60, ho già fatto le mie prove col microfono normale in cuffia, ma non è male, va abbastanza bene. A te cambio Carlo. Eccoci qua, sì, oggi l'ha presa così, sempre bioe. Sì, no, Luca la barca, e fa bene d'estate. Se ne va a rinfrescarsi, dove la tiene lui poi già è un ottimo posto, conosco bene, e quindi ci puoi passare lì tutti i fine settimana tranquillamente, e quando c'è il caos lì già stai bene, capito? Sì, non è male Alghero, anche io d'inverno ci giro parecchio, anche da poco ero lì a una cena, prima siamo stati in ristorante, poi eravamo in giro, d'inverno è tranquillissimo, sino ad aprile è tranquillo, poi da maggio diventa un po' invivibile, non trovi parcheggio eccetera, e anche io stavo pensando, visto che lavoro lì all'aeroporto, di comprarmi una casetta lì, se non proprio ad Alghero, magari stavo cercando a Fertilia, però poi ho detto, una volta che non ho più il lavoro lì ad Alghero, poi mi sta stretto a me, capito, perché ci sono stato talmente tanto che preferisco stare qua a Sassari, ti passano più le giornate, esci la mattina, te ne vai in giro ai centri commerciali, incontri amici, ti prendi un caffè, ti passano le mattine, là invece è una noia, là è proprio noia mortale, o hai la bicicletta, te ne esci o vai a pescare, però non rientra nelle mie priorità andarmene ad Alghero, preferisco stare a Sassari. No, ma sicuramente non è neanche nelle mie priorità, ti ripeto, io ci vado spesso perché c'è mia mamma ancora, nonostante sia abbastanza grande, ha già fatto 94 anni, però c'ho mie sorelle, tutti i miei zii, i miei parenti, Marti, sono tutti ad Alghero, quindi non mi passa neanche per la testa andare a abitare ad Alghero. Mi piace come città, ci vado, ci posso trascorrere anche una settimana, 10 giorni, ma poi me ne ritorno alla mia città, perché è meno caotica, poi insomma non è trafficata nel periodo estivo come qui con le città di Alghero e tutte le altre. Va bene, vi chiedo permesso un attimo di Querix, che è già ora di accendere il riscaldamento qua, che mia moglie c'ha freddo, quindi cambio per Antonio e rientro subito. Papà, no, io già ci sono stato lavorando da Alghero, cioè ci vado molto anche, durante il mese, anzi questo mese mi sa che due volte ci devo scendere, durante tutto il mese scorso e anche il mese precedente, un giorno ero sempre scendendo da zero, perché lavoravo, facevamo i palchi e tutto, poi anche lavoravo molto anche al quartiere, ho lavorato, ma tanto mi, tanto. E ti dirò che non è male, però come città non è male. Però non è la mia preferenza, non è la mia preferenza stare lì. Bello quando ci vai, diciamo, a me piace se ci vai a passare una giornata, quando è tranquillo, capito? Tipo ci vai a Pasqua che ti vuoi sentire o vedere i riti santi, la processione, poi te ne stai a cena lì, iniziano ad aprire i ristoranti, eccetera, che sta iniziando la stagione, ancora, se è bel tempo, è piacevole, ti fai una bella passeggiata rilassante, se sei con un amico, eccetera. Allora va bene, così già ci vado volentieri, ma ci ho passato tanto di quel tempo, d'estate prendevo sempre la casa al mare quando avevo i bambini piccoli, anche 2 mesi stavo là, ho la casa di mio cognato e lui non ci va più, mia sorella purtroppo non c'è più, e infatti mio cognato mi dice quando ci vuoi andare, e ho detto tanto mi hai dato le chiavi, non ci vado mai, e lui c'ha l'appartamento in via l'Europa, è un secondo piano, capito, quindi quando voglio andare c'ho un altro paio di chiavi del mio amico, lo stesso che c'ha la chiave della mamma, la mamma se l'è portata via lui e non c'è più con lui, e c'è il fratello che abita su al terzo piano e lui c'ha l'appartamento al secondo piano, e poi c'ho anche il terreno a Carrabuffas dopo l'oleificio, mio cognato lì si sta facendo una casa, quindi ogni tanto vado a controllare i lavori, quindi ad Alghero ne ho la nausea, sono più ad Alghero che a Sassari io, quindi quando andrò in pensione spero di non andarci più, se non ogni tanto così a fare una passeggiata. Io invece è il contrario, io, cioè pensarmi in pensione di aprire la finestra e vedere il palazzo di fronte, sebbene sia al quinto piano, ma essere comunque all'interno di un quartiere circondato dal cemento, non mi ci vedo, non è come Carlo che abita in una casa indipendente, col suo terreno, con la sua aria. Io pensare di alzarmi senza avere l'uscita di lavoro e passare dal letto al divano a guardarmi la televisione con i palazzi intorno, sì che esci, c'è le comodità, ma è vero, ci sono tutte le comodità, ci sono le banche, ci sono gli ospedali, anzi ce ne sono 2, e vi dirò che un pensiero di andare a abitare lì da pensionato me lo faccio. Ora la mia compagna, che aveva qualche moneta da investire, ha comprato la casetta Alghero, e la nostra intenzione è, una volta in pensione, di andarcene a abitare proprio lì. Ci abbiamo questa casa con il posto auto, col garage, perché il problema di Alghero fondamentalmente è il parcheggio. Lì abbiamo la fortuna che era compreso di garage, poi io c'ho lo scooter, per cui la macchina, una parcheggiata dentro, una fuori, lo scooter, la barchetta vicino, e quella è l'idea del pensionamento, prendere un pesciolino appena pescato dal mercato del fresco e organizzarci il pranzo così, anche perché ha avuto la fortuna di acquistare questa casettina con vista mare, per cui la mattina quando fai colazione guardi dalla finestra e vedi il mare, è tutta un'altra cosa, tutto un altro panorama. Sì, no, quello lo so, infatti dove ha la casa il mio amico, che io ho le chiavi di casa, e se volessi andare lì a dormire non ho problemi, capito? Posso andarci quando voglio. Lo stesso è panoramico, ci sono stato lì a Pasqua, ho fatto una cena lì da loro, hanno fatto i fuochi artificiali e si vedevano tranquillamente, si vede tutto il mare, anzi adesso stanno costruendo un palazzone lì proprio di fronte alla COP, più avanti dei carabinieri, e quindi quello lì ha tolto la visuale, se no prima si vedeva anche Capocaccia da lì, capito? Quindi sì, è bello, ti affacci al terrazzo, ci puoi fare colazione, la mattina ti vedi il mare. Alghero, diciamo, ti rilassa, però d'estate spostarti è, capito, è un casino, è, capito, troppa gente, fila, fila ai ristoranti, prenotazioni, non è molto, diciamo, fruibile come città, e, capito, se la prendi per certi aspetti va bene, capito, per una passeggiata, io la vedo così. Poi mi trovo bene qua, io a Sassari, ormai sono sassarese d'adozione, anche se non sono di Sassari, capito, sono nato da un'altra parte, poi sono venuto, ma mia mamma, mia nonna erano sassaresi doc, capito, nonna faceva Melis di cognome, mio padre che non era di Sassari, e quindi ho finito le scuole qua, e quindi ho qualche amico, parenti, ho mio fratello, mio cognato qua a Sassari, ho una mia cugina che ci frequentiamo, miei nipoti, figli di mie sorelle che abitano qua vicino a me, quindi bene o male, capito, io le mie uscite ce le ho qua vicino, e quindi alla fine mi trovo bene qua e non credo di spostarmi, capito, però mai dire mai, capito. E tu non è che fai bene a pensarla così, perché se il posto ti piace uno deve seguire il suo istinto e fare le cose che fa piacere fare, quello è positivo. Ma io ho visto che mio padre, quando è andato in pensione, ha contato sino a 10 e si è trasferito con mia madre giù a Placamona, e si hanno fatto 14 anni fino a quando non è venuto a mancare, si è fatto 14 anni lì a Placamona, perché gli diceva appunto che a Sassari non ci faceva niente da pensionato, cioè a parte le commissioni, poi non ha mai frequentato un bar o un circolo, perché era sempre preso al lavoro, è andato in pensione e si è trovato proprio senza far niente. E allora ha preso mamma, se ne sono andati giù a Platamora con la scusa di rifare il Prato Verde, e sono rimasti 14 anni. Però lui mi diceva, la mattina apri le persiane e c'hai tutto il prato, ti fai una passeggiata in spiaggia, ti raccogli due pigne per arrostire, eccetera, ed era un'altra vita, piuttosto che stare in appartamento, l'appartamento lo soffocava, e io la penso più o meno così. Poi ripeto, questo appartamento che ha comprato la mia compagna, ha la fortuna di essere di fronte al mare, proprio a Alghero, nella passeggiata, nella via quella quattro corsie, là, proprio davanti al mare. Ed è anche vicino al centro, perché adesso non so come spiegarti dove sia, però è molto centrale, non è a Lido, ecco, è proprio vicino alla caserma della finanza, ed è proprio di fronte al mare. Per cui l'idea è quella, andarcene a abitare lì, fare i cambi di residenza, quello che bisogna fare, e diventare quasi algherese. E ripeto, le commissioni quando c'è casino le fai con la moto, quando c'è casino chiudi le finestre, che sono oramai queste finestre moderne, hanno un taglio dinamico di rumore impressionante, che proprio non si sente niente, e l'idea è appunto quella di andarcene lì e svernare lì e farci la vecchiaia lì. Non è male, no, quella, se ho capito, io la conosco bene, già è un'ottima zona lì, sì, anche in un punto vicino proprio al centro, anzi non troppo vicino al centro, che non guasta. Se poi hai un parcheggetto lì, che hai il posto auto, il garage, hai fatto bingo, perché lì sei vicino al mare, vicino al centro, ma non sei al centro. E lì andare a Piazzale della Pace, se c'è qualsiasi evento, fai in un attimo, fai 5 minuti e sei arrivato, quindi quella è un'ottima zona. Invece mio cognato ce l'ha proprio quasi all'inizio di Via l'Europa, capito, e da lì sei vicino al mare, sei nella zona Lido Ospedale, capito, e già è bello lì il mare, eccetera, e ci puoi andare a piedi tranquillamente senza prendere la macchina, però anche lui è in mezzo ai palazzi e c'hanno il prato, c'hanno il giardinetto, tutto quello che vuoi, però se si affaccia non vede niente, capito? Non vede niente. Se la tua è anche lì vicino al mare, quindi c'è la possibilità di vedere il mare, è ottimo, è una buona cosa quello. Quindi sì, no, non è male come idea, è un'ottima idea, dai, e molti vorrebbero riuscire a fare quello, insomma, andarsene in un posto tranquillo così e godersi gli ultimi anni, capito? Ma io adesso sono solo soletto e compagnia non ne ho, i miei figli ce li ho qua e abitano vicino a casa mia, e per cui il richiamo della foresta è questo per me. Poi mai dire mai, capito? Non è detto, e vedo un po' come vanno le cose, posso anche vendere qua, aggiungere qualcosa, comprarmi una casa da quelle parti, magari anche verso altre zone, sempre zona di mare, anche a me, diciamo, mi piace, mi rilassa anche il mare, capito? Fare passeggiate così, no? Non c'è cosa migliore, quello sì, però dai, per adesso sto bene così, poi in seguito vedrò anche io, e io sono fatto così, in base alle condizioni poi cambio. Allora vado in bianco un attimino che mi ha chiamato mia madre qua a fianco, niente, Piazza della Pace non sono 5 minuti, Piazza della Pace sono 50 metri, quindi forse un minuto, esco dal portone ed è lì, cioè, per quello è vicinissimo, diciamo che la casa è tra Piazza della Pace e il distributore Kuwait che c'è più avanti, diciamo metà strada lì, per cui la posizione è comoda per quello. Vado in bianco, rientro fra un po', vado a vedere cosa succede. Ehi, allora anche io ne approfitto, vado a bermi un bicchiere d'acqua, vado in bagno. Antonio e Claudio, se ci siete, un attimo di bianco per me e anche Luca, e poi riprendiamo, ci sentiamo più tardi, dai. E 10 minuti, un quarto d'ora e poi rientro. Sì, qua non c'è problema. Ok. Tutti ogni anno? Ciccio, butta giù la pasta. Ciccio. Accudite gente, accudite. Miau, miau, miau, miau. Attenzione, Ciccio, c'è qualcuno? Luca è rientrato. Beh, Ciccio. Zappa, mi raccomando, Manuele, lo senti? Non mi sento nessuno, a me anche tu. Luca, Manuele, lo senti? Sì, lo sento chiaro, non ho guardato lo smitter per vedere come mi arriva, ma lo sento benissimo. Ben sentito, Emanuele. Yeah, ciao Luca, buona serata, dai. Riprendete pure che sto facendo cosa qui, dai. Vi ascolto. A casa c'è una posizione micidiale, cioè ma guarda che ha imprecazioni che... cioè io ti sento tutto Sassari, eh. Eh sì, sono abbastanza in alto. Pensa che da dove c'è l'antenna vedo l'ufficio della mia compagna Predanieda, vedo proprio le finestre. No, sono in, sì, la posizione non è male, svetto bene su tutto. Mi sto curiosando questa app che ho scaricato nel cellulare, che si chiama CB Talk, però non so come funziona. Sì, già lo so io come funziona già. Ma funziona? Sì, un po' di carragumine, cioè, mamma mia. Ma si riesce a sentire quelli di Sassari o come funziona? No, senti tutta Italia, senti. Non sono Sassari, non ce n'è quasi nessuno, non c'è. Senti persone da ogni parte, d'Italia. Poi anche le cose dedicate da ogni parte del mondo per fare. Io l'ho provato, ma c'erano napoletani, siciliani, di tutto. È un po' di gente anche che bisogna lasciar perdere pure. Gente in gamba e gente che bisogna lasciar perdere. Già non mi morsicheranno l'orecchio se le ascolto. No, già sanno che ci sei pure, perché ti dà la posizione. Io non riesco né a sentire né a vedere nessuno. Che cosa? Su Cibitoc? E io? Ma io sentiti, sì. Non sento nessuno. C'è di quali canali, prima funzionava, ma non so più adesso. Stanno un po' di anni che non entro più. È fatta l'iscrizione, sì, tutto quanto, verso il codice. Mi pare che è una cosa del genere, non me lo ricordo più. C'ho anche il dual mic, uno dei primi a Sassari. Boh, sto curiosando, sinceramente. Chiappa. Sono stati uno dei primi a farlo dual mic. E vabbè, Avana, giusto dato, tanti auguri. Chiappa. Già quella via io, cioè. Se n'è andato. Comunque a Carghero già siamo arrivati. Anche Carghero già va bene. E su Porto Torres non c'è più nessuno? A Carghero? No, a Porto Torres. Ogni tanto se ne sente qualcuno. C'era Eugenio, c'era, ma da me non entra più. Porto Torres si arriva molto molto più facilmente. Sì, sì. Adesso da un po' di tempo non lo sento. O si è truccata l'antenna, dai giù. Perché Eugenio arrivava bene. Eugenio, poi ce n'era un altro. Sandro, mi va. E dopo che non ne trovo più. Qualche un altro, ogni tanto ne trovo qualche un altro pure. Qualche vecchio, ma. A Puccio d'Ora già arrivi, a Puglia. Che razza di domenica noiosa, esci a vedere cosa sta facendo la vita. Io mi ho rinnovato cosa, una TV. A Romaco c'è mi borsa da la Formula 1. Cioè questa settimana. Quando è? Questa settimana iniziano le. Rinizia. Quando non sono con dammi il boso in macchina, ce l'ho anche, me l'ho memorizzato anche nel mio hotel, vabbè il mio hotel è come un tablet, me l'ho messo anche lì almeno quando sono a casa, cioè quando sono mi muovo in macchina me la fai tu. Registrato il break. Io invece proprio mezz'ora fa con l'assistenza di Carlo ho dato la disdetta a Now, tanto Now lo usavo solo esclusivamente per vedere le partite della Torres e siccome mi ha rotto le balle la Torres non valeva la pena spendere tutti quei soldi al mese per vedere una partita cavata di 16 e allora aggiungarsi il lato giusto e guadagno 30 euro al mese, tutti i mesi ho 30 euro in più. C'era l'offerta, c'era. Si può dire il break. Io l'ho pagato 19 euro l'ho pagato. C'era l'offerta. Avanti o già. E là, buonasera a tutti. Buonasera Gianni, ben sentito. Sì, Antonio, l'offerta io ho fatto la disdetta perché stavo pagando 29,9 per guardare ogni due settimane. guardare ogni due settimane da torre, quindi due partite al mese mi venivano 30 euro. Per incazzarmi pure, quindi arrivato a un certo punto l'ho disdetta e pazienza. Ma iniziamo a grattare le piccole cose. Io mi guardo la Formula 1, un po' di tutto. Avanti già, buonasera. Ciao Antonio, ben sentito, dai. Non so chi ci sia oltre voi due perché ho acceso adesso in questo momento, non ho fatto ascolto. Al momento siamo noi due, poc'anzi c'era anche Carlo e Claudio e tale Sergio D'Alghero. Ora che sono rientrato io dal bianco trovo solo Antonio, non c'è nessun altro. KK, e va bene, dai. Non c'è problema. Io se adesso stavo cantando e adesso mi sto rilassando lo stesso alla radio, dai. Andiamo bene così, certo la giornata è brutta, non si può uscire, non si può fare nulla. Carta, spero la prossima settimana faccia bello. Sono uscito ieri notte e poi oggi l'ho invitato a pranzo, quindi a casa ci sono stato ben poco tra ieri e oggi. Io ero col bambino, perché ero due giorni che lavoravo, quindi sono stato anche domenica col bambino. Domani lo porto a scuola, domani lo porterò all'asilo e via, va. Speriamo che domani faccia bello, che non mi voglio pigliare macchina, mi ha rotto i coglioni, cioè non ne voglio proprio prendere, mi prendo la moto domani, a chi ne ha riso con il sugamato. Perché anche lui succede? Cioè ogni giorno con questa macchina, oltre che non mi posso, io voglio uscire in moto, voglio uscire. Oltre che risparmio. Ah, quello sì. Io pensavo che ci fosse successo qualcosa alla macchina, meglio così. E vabbè anche tu. Quando piove non puoi pigliare la moto, specialmente se sei con bambini. No, cosa vento? Te la accompagni, ma se ti fa le commissioni io piglio una moto. Cioè non prendo mai la macchina, e sai che tipo c'è stata ferma sotto casa. Non so di tutto che c'è freddo. Ma io non ne voglio pigliare, vabbè la devo portare perché mi deve cambiare il ripartitore della pompa delle cose, una cosa vecchia. Della pressione che mi sta girando le balle, no? Non la voglio più vedere così. Però adesso già piano piano la verità non usava tutti i giorni, non mi fa male questa macchina. Ma tu ti sei abbassato il segnale? Sarò che mi rompendi le balle. No, Anto, qua da me sei 9.30, e che moto c'hai? Il Piaggio NGR. Truccato. Uno scooter? Del 94 è quella moto. Del 94. Come si dice? C'ha il cammina, è giù un cinquantino, ma per me va bene per girare in città. Cinquantino tra virgolette, c'ha pistone, cilindro, DDR, e la trasmissione è Malussi. La marmitta no, è come quella originale, ma non è ghissa. Carburatore a 17, tigre da 18, quando apro bisogna stare attenti, soprattutto quando è bagnato, perché così non si scinora a mare. Capa, io avevo invece prima un Suzuki Wustrom 650, allestito da Viaggio con valigioni e tutto, però c'ho un'ernia del disco, tutta la volta che scendevo dalla moto erano dolori alla schiena, ma proprio mi bloccavo. E allora per causa di forza maggiore me l'ho dovuta vendere e mi sono preso uno scooter per fare le commissioni. Ah, è molto, hai fatto bene, molto bizzante, bravo a crebarti la china, no. Quello scooterino va bene, va. Io non sono a parlare molto troppo grosso. Ania madre di Venga, se devi fare chissà guai. Ma è fatto bene, è fatto. Lo so che è comoda magari per fare viaggi, però è troppo scomoda peraltro. La mia pesava 200 kg. Buonasera a me, ancora di morte se ti fa vedere. Mi aveva voglia, ma non ce la faccio più. Ne abbiamo avuto abbastanza della moto. Ma con la bicicletta riesco a guidare più con la schiena. Cosa c'hai tu, Luca? Io bisogna contare cosa non c'ho. Peggio di Gianni, no già. Io avevo più due Suzuki, Luca. Ho avuto 150 e 400. E la mia era il Bustrom, quella tipo enduro, ma più che altro moto da turismo, quindi schiena dritta, comoda per viaggiare, super accessoriata, c'avevo tutto, c'avevo portanavigatore, portacellulare, sella, la del serbatoio rivestito in pelle, i tre valigioni dietro, paramotore in acciaio, c'aveva tutto, era bella, era veramente bella. Però ci viaggiavo, scendevo dalla moto ed ero piegato in due, e allora invece mi ho preso uno scooter molto usato, da tatto, però in ordine, sempre Suzuki Burman 400, che pare una lavatrice Canterman, però c'ha un bellissimo sottosella per mettere le buste della spesa, piove, non ti bagni perché c'è il parabrezza, e poi comunque è un 400, per cui quando scendo giù alla barca a Capocaccia, in estate ci vado anche in moto, perché insomma già c'è un bel passo, ecco. Io vado a passo di turista, perché quando ti metti a 110 viaggi tranquillo, ma se c'è da camminare sale pure, arriva a 140 150, tirato, ma non è molto con le ruote così piccole da andare a quelle velocità. Un viaggio da velocità di crociera a 100 110, e mi porta comunque dappertutto. Non è una moto, è uno scooter, però lo sto rivalutando. Prima li prendevo in giro, e invece sono comodi, sella larga, sembra di essere seduto in poltrona. A me lo dici, io ho avuto il Burman 400, ma l'ultimo tipo, quello nuovo, capito? E anche il 150 Burman. Poi ne ho avuto altri di moto, non sarei elencato, perché ne ho avuto 6 o 7. No, io niente, già. 110, il Pumatis che ci avevo io. Immaginati, o Luca, Gianni già è presente. Io in due con la mia, e un altro carissimo amico che è sparito, con il T-Max, modello nuovo, da solo, l'abbiamo passato in due, e il mio, quello che c'era dietro, ha passato il casco. Te ne ricordi quando andavamo tutti in greffa in moto, io, tu, Tino, tutti i gatti in greffa? Insomma, di gara. Io ho avuto il Transalp 650, che l'ho dato ad Omar. Ti immagina che ho fatto cambio con Omar, perché non... era un periodo che non me ne faceva niente di avere soldi, però avevo fatto cambio con Omar, non con Omar Desi, Piazza Desi, gli avevo dato il Burgman, il Transalp 650, e mi aveva dato una macchina, una Peugeot 306 van, che mi serviva per lavoro, cambio e cambio, passaggio e passaggio, fate il conto quanto valeva quella moto. Avevo lo stesso problema anche io, nel senso che era troppo alta e mi creava problemi quando mi fermavo, capito? Poi, non avendo la moto, mi è venuto in testa di prendere l'Hornet 600 nuovo da Aldo, però a marce mi girava le balle, perché insomma ero già un pochino grandetto, e mi sono venduto quello e preso il T-Max, ma che T-Max, mamma mia, l'ho messo 200 all'ora, faceva una bestia era, e poi leggero, lo sai, il T-Max è una moto molto particolare, fatta bene, anche se c'ha le ruote piccole, ma poi la pedana in terra tocchi, se la sai portare con la moto facendo le curve, con un telaio micidiale, una grandissima, bella moto. è che io ho tanti quegli impegni qua che non posso investire su di nuovo per la moto, ma mi sarebbe piaciuto avere un T-Max. Mi sarebbe veramente piaciuto usarlo solo per il vestito, però non fa più. Non fa più perché la schiena non regge più, le gambe sono quelle che sono, le braccia non le parliamo. E quindi ha detto, ma io ammazzarmi, è meglio che sto faccio da bravo. Avanti, Luca, riprende e fai girare. Buonasera a tutti comunque. Sì, io la moto l'ho data per quello, ma con la moto partivo dal venerdì sera, mi ho girato un'ogliastra, sono andato dappertutto. Poi la schiena ha iniziato a fare i capricci grandi, tanto che ho dovuto fare ozonoterapia, guarda, ho provato tutto, l'agopuntura, cosa non ho provato? C'è un'ernia tra l'ultima lombare e la prima sacrale. Quindi niente, l'ho fatta fuori. E poi ho preso questo scooter, questo Burman 400, è del 2003, però è super in ordine. Poi vabbè, mio compare segue le Suzuki a Sassari, unitamente alle Ducati e alle Kawasaki, perché è officina autorizzata di tutti e tre, me l'ha trovata lui la moto, a poche lire, molto in ordine. E niente, il sabato mattina, per dire, se non piove esco con quella, perché ti compri una cosa e non stai a cercare parcheggio, vai al mercato ed è cosa veloce, vai in macelleria e la lasci sul marciapiede, serve per le commissioni l'ideale. E in estate sì, in estate insomma riesco a muovermi anche con quella, anche in ufficio vado tante volte la mattina quando sto lavorando. Io ce l'avevo sino all'anno scorso la moto, l'estate scorsa, poi la usavo pochissimo perché la schiena ha peggiorato tantissimo, alla fine l'ho diciamo regalata, ho fatto il passaggio, l'ho data a un amico che era a piedi, che serviva per spostarsi in città, gliel'ho data, ho trovato figlia Dia. Infatti facciamo il passaggio e te la regalo, e se l'ha presa, infatti ci vediamo, ci siamo visti anche da poco ed era proprio con quella moto, contentissimo, capito, 125, e se la sta usando lui, io non ne vedo più sabbia di moto, abbiamo già dato, già bei tempi, però avevo anche quella, eravamo usciti da solo, tu col Bug, ma io col 250, no, avevo anche il Majestic, avevo l'altro, era il non era il T-Max, S-Max, una cosa del genere, sempre della Yamaha, che andava molto bene quello granato, e quello avevamo scesi a Plattamona. E io mi ricordo che abbiamo avuto la stessa sorpresa una volta, scendendo a Plattamona, aveva vinto molto in moto. Ah, ti ricordi, stavamo facendo la Budi, ci avevamo fatto del viale, siamo passati dall'altra parte, quel ragazzo sì che era morto lì davanti a Graziella sul ponte. Sì, infatti, ma noi dobbiamo passare qua, ma cosa dovete passare qua? Tra i carabinieri, se c'è morto per terra, sopra il morto passate. Ho avuto un incidente con una macchina che era uscita lì proprio da quella stradina di fronte a Graziella, l'aveva preso in pieno. Roda Quaga è quella stradina. Davanti a certe cose dovevi fare. Ce ne siamo tornati indietro, te lo ricordo. Sì, siamo tornati indietro, poi abbiamo fatto il giro e siamo andati a vedere, ma non ci avevano fatto passare. Eravamo io, tu, Franco, Tino, boh, un sacco di gente, avevamo 5-6 in moto. Uscivamo, con Gianni uscivamo spesso noi in moto, poi anche Gianni con i problemi che ha usa a moto tratti. No, a me le gambe e soprattutto il periodo invernale, io vado una volta alla settimana a cortisone, perché altrimenti non mi reggono più. Le braccia, c'ho l'omero sinistro che è quasi staccato, adesso c'ho la visita a marzo per vedere se cosa si può fare, se è da rimettere a posto, che cosa. Lasciami lì, caro Luca, sembro giovane, ma non sono giovane. Oh yeah, non so quello. Va bene, il cambio per Antonio, vai a tu. capo, ma io c'ho una moto, me l'avevo regalata, me l'avevano. Sono sempre quella della volta, l'ho modificata io per camminare di più. La verità è che andò alla bocca a revisione, ve lo raccomando, mi attenzione che se ne porto delle movine, ho preso. Questa volta l'ho portato a fare a caro io, ho fatto una specie di gatto, andava in corso, andava a accelerare, siccome c'era la moto, c'è stata la banca, andava a accelerare in un computer da 20 litri. Ha detto, ho preso un cazzo da accelerare piano in onghi. Cioè, che durura. No, cioè, poi la femmina hanno fatto una specie di... Io gliela ho già detto, mica la moto è così, cioè, perché... E poi me l'hanno fatta passare, capito? Però devo stare attento a questa moto, perché cammina troppo. Ehi, vabbè, tu però... Quando parliamo di un motorino così, anche se truccato, parliamo di un T-Max con rulli, centralina e marmitta, e faceva 190 all'ora, con la prima me, quando sei quante volte mi sei girata, da fermami, tu partivi e la ruota di dietro pattinava dalla potenza che aveva. Quindi siamo parlando di molto diversi, era già un 500, quindi... va bene, saremo fatti le avventure, Gianni Lupiuru, ce l'abbiamo già fatte, adesso largo ai giovani, vai già. Io mi ricordo che ho provato al quadrato quella di Franco, cazzo, me ne sono scese le lacrime dagli occhi, ho fatto una tirata nel rettilineo, le lacrime dagli occhi mi sono uscite. Ecco, quando uscivamo io e lui assieme, che uscivamo molto spesso, quasi tutte le domeniche, andavamo a Platamona, Gaidino a Peci, il caffè, a Beci, una birra, eccetera, uscivamo a Porto Torres, siamo andati a Castintino, comunque, Franco tutte le volte voleva la mia, chiedo di mia zia, capite, io prendevo la sua, e quando apriva Franco se ne andava anche di un chilometro, rispetto a quella sua, perché quella sua era originale, ma la mia era... era un demonio, già te la ricordi. Ma la ricordo, poi è finita in mano al figlio di coso, ma mi sembra di mai come si chiama, adesso non mi viene il nome. E al figlio di Tore, ma io non l'ho venduta al figlio di Tore, io l'ho venduta al fratello di Robby, capito? Al fratello di Robby, quello del fornitore, l'ho venduta io. Poi lui si è stufato, l'ha data al figlio di Tore. L'hanno distrutta quella moto, l'hanno distrutta. Oh, che ce l'ha ancora! Ce l'ha ancora, ce l'ha! Chi? Ad Alessio l'hai venduta! Non gliel'ho venduta io al figlio, non so se si chiama Alessio, non lo so. Gliel'ha venduta quello del fornitore, fratello di Robby, il grande, come si chiama? Boh, Simone. Ce l'ha ancora, via, pensavo da poco tempo fa. Oh, che già finirà, è una roba. C'è chi sa, guarda la mia da Rombo, la sentivi? La mia sentivi a Rombo, poi c'era la marmitta, già ne già se la ricorda, poi veramente bella, tenuta bene, non le mancava niente, era veramente bella quella moto, era veramente bella l'iniezione, il penultimo modello, poi hanno fatto la nuova, io l'ho venduta a Simone, al fratello di Robby, capito? E non vi lascio regalata perché l'ho venduta, mi pare, 4.000 euro. Mi ha dato in due volte perché mi sono fidato, e mi ha dato in due volte, 2.000 prima, compresa di passaggio naturalmente, prima il passaggio, poi i soldi, e poi gli altri 2.000 mi ha dato il mese dopo. Persona serissima, non devo dire niente. Poi l'ho venduta a lui, capito? L'ho venduta a lui. Poi lui so che si era stufato e l'ha data al figlio di Tore. E poi la mia non risponde noi. Ma pure benzina anche. Ha detto che verrà ancora, guarda, finalmente a pochi mesi fa del CEO verrà via ancora, ma penso che verrà già ancora, verrà già, e mi azzocco quando apre chissà cosa, che sto proprio un po' tremendo. Guarda, la riconosce perché c'ha le pedane in alluminio, o sbaglio, Claudio? Sì, c'erano le pedane in alluminio, certo che sì, il copripedane in alluminio aveva. e già chissà ma una sola marmitta mi era costata cosa da Romolo e poca, ma l'ho ordinata lui, mi pare me l'ha costato 260 euro solo a marmitta, poi i rulli e la centralina me l'aveva cambiata Omar, guarda sì. Perché lui meccanica fa Omar, non ha solo la vita. Omar è nato con Mariani, Omar è un bravissimo meccanico, Omar fa assistenza, fa tutto con le moto, c'è l'officina dentro, le vende, ma c'è anche l'officina, fa piccole cose, però è molto bravo. Come ha lavorato una vita con Mariani, poi si è messo a conto suo, quello locale suo, non è in affitto. Mamma mia.